Una buona serata a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di 451 frammenti sonori. Questa sera in compagnia quindi di Max Macchia, ci diamo un po' il cambio di testimone con Eliseo Scarpa, che la scorsa settimana vi ha tenuto compagnia con le sue architetture musicali, o le nostre, insomma, visto che poi insomma c'è una certa dialettica dentro 451 frammenti sonori, anche col nostro bloggers Lorenzo Albano, che chiaramente saluto, è lui che cura la faccenda insomma bloggistica, 451 frammenti sonori noblogs.org, per chi volesse insomma riascoltare o ascoltare per la prima volta la faccenda di 451. Questa sera ci occuperemo di viaggi dentro e di flussi dentro le canzoni, ma non solo, poi l'idea di canzone è piuttosto ampia, varia e soprattutto insomma soggetta anche a manipolazioni sia da autori sia da parte di chi trasmette, da sottoscritto, che appunto tenterà una sorta di omaggio, un po' anche riprendendo i sentieri Lost Highway di qualche settimana fa, dove tiravamo fuori insomma dal nostro cappello magico vari cantautori che hanno fatto della canzone una sorta di viatico, di un viaggio immaginario di sonorità e di parole che vanno appunto a disegnare un nuovo mondo, oppure appunto strade perdute sia in senso lato che in senso stretto. Qualche settimana fa appunto tiravamo fuori personaggi che poi per molti aspetti si sono anche persi nei loro meandri esistenziali, o si sono persi nel senso si sono smarriti volutamente nel loro viaggio o nel viaggio extra musicale, perché no, le musiche possono portare veramente tanto lontano. Molti personaggi che trasmettiamo da queste parti, qua 451, si sono persi volutamente o meno, musiche quindi che evocano questa sera, infatti una trasmissione dedicata alle evocazioni, anche così agli iter un po' casuali e anche un po' smarriti del sottoscritto, che questa sera appunto divagherà in termini cantautoriali, divagazioni appunto cantautoriali in maniera frammentata, così come piccolo scarto dalla quotidianità e probabilmente da un appesantimento che tutti questi autori, ma si può anche fare un discorso insomma per buona parte delle autorialità che passano qua da frammenti sonori, questa ricerca di andare oltre, nell'oltre appunto musicale e sonoro, dello sperimentare sia in campo estetico, artistico, ma anche in campo esistenziale, poi tante volte va proprio a braccetto anche con musiche, con testi che sono, come dire, per diretta conseguenza una sorta di propaggine, una sorta appunto conseguenza dello stesso agire artistico, quindi anche un agire esistenziale che si accompagna a queste autorialità. Beh, come dire, se c'è una musica transgender, come non parlare di Baby D, folk che prende tanto da Current 93, con cui ha diretto contatto il personaggio femminile maschile, forse non è neanche più importante quello con Baby D, è importante insomma una musica che va oltre anche lo stesso folk di Current 93, che già di per sé è piuttosto transgenico, nel senso di mutato nelle sue connotazioni e nelle sue radici, anche a ripescare sì certi inglesi degli anni 70 che già comunque compivano operazioni di mutazione come Incredible String Band o Fear Band. Baby D su quel filone, poi appunto collaborando con Karen 93 e riporta una sorta di folk decisamente allucinato, ma anche con quel senso decisamente classico dato da Baby D, che però sia dentro il personaggio sia dentro le musiche acquista quasi un valore alternativo, se non fosse insomma che tante musiche ricordano appunto momenti anche piuttosto intimi da musica da camera, però con questi svisamenti, con queste allusioni sonore che portano lontano, quindi un mondo classico che comunque viene sempre manipolato in maniera piuttosto fantasiosa, piuttosto anche delicata da Baby D, che andiamo a prendere da un suo disco storico, un disco della Dutro, quindi direttamente collegato con David Tibbet & Company, Love Small Song, veramente disco eccezionale, dove appunto il cantautorato si va a disperdere una sorta di evocazione della natura, dell'impressionismo sonoro, anche con tanto di uccellini che a un certo punto subentreranno nel secondo pezzo che stasera ascolteremo da questo gioiellino del 2001. Baby D per iniziare le nostre evocazioni musicali, le nostre divagazioni cantautoriali. Buon ascolto. Thank you.

Baby D con i suoi viaggi interiori, musiche che vivono di grande immaginazione sonora. Se non fosse per così questo aspetto che lo rende insomma non pop ai più, anche se poi Anthony, che per tanti aspetti insomma ha in comune con Baby D, è diventato famoso, ma diciamo che appunto D è sicuramente un più scomodo di Anthony, perlomeno come presentazione. Ricorda veramente una vecchia matta che canta di canzoni che vivono veramente di ubriachezze, ma anche di mondi decisamente fatati, più che insomma un esistenzialismo quasi adolescenziale, non me ne voglia nessuno insomma che ama Anthony, ma insomma quello mi viene da pensare insomma riguardo alla musica di Anthony and the Johnson. Invece per Baby D insomma la faccenda è un attimino più o forse meno accomodante. Riguardo a personaggi che non sono stati mai decisamente comodi, perché sempre così legati a mondi immaginativi piuttosto personali, anche se per un momento sembravano anche propensi a musicalità pop che li portassero anche insomma nei pressi delle classifiche anche alte. Parliamo del pazzoide Momus, veramente personaggio eccentrico se non addirittura eccezionale, che intorno alla metà degli anni Ottanta, quando era quasi impensabile fare musiche acustiche in pieno periodo techno-pop o comunque legato a un forte artificio degli studi di registrazione, quindi un forte remissaggio in quasi tutte le produzioni, dal pop più banale a anche le musiche ricercate, se non andiamo proprio a trovare l'impro radicale e certe faccende che invece utilizzavano insomma il suono scomodo e quindi nascente anche lo-fi eccetera eccetera. Però diciamo che nella stragrande maggioranza delle produzioni intorno alla metà degli anni Ottanta si andava con la mano bella pesante per quanto riguarda Banco Mixer. Invece Momus se ne esce con un disco nel 1986, Circus Maximus, decisamente anomalo perché molto particolare, quasi, fatemi passare il termine, prog nel senso migliore, sempre che esista un senso migliore legato alla progressive music, ma forse con Momus insomma ci intendiamo, a memore di certo Brel più orchestrato e o più sperimentale dentro le sue musicalità da camera. Momus si muove insomma tra una sorta di ripescaggio appunto del grande francese e mondi immaginativi un po' come quelli di Baby D, che vanno a prendere tanto dal classico se non addirittura dall'antichità. Qua addirittura in Circus Maximus già il titolo insomma ci ricorda altri tempi, altre epoche storiche, vengono prese anche riferimenti proprio biblici il mondo decisamente allegorico anche musicale di Momus, che si tinge tanto di pop e quindi in questo senso dicevo poteva per certi versi sfiorare anche forse le classifiche inglesi proprio nella seconda metà degli anni Ottanta, e poi stranamente si tinge però in maniera quasi incidentale, se non proprio decisamente artificiosa, di pop tecnologico in altre situazioni. Un mondo sì che vive appunto di questi grandi contrasti, un po' come il folk essenziale e il neoclassicismo di Baby D. Momus con appunto un viaggio dentro le memorie musicali barocche e poi appunto questo senso elettronico che aleggia e ogni tanto prende appunto il sopravvento. Arzigogolati gli arrangiamenti, ma appunto poi sviluppati e risolti anche in maniera decisamente brillante. Momus quindi dal suo Circus Maximus, per continuare insomma le nostre evocazioni, le nostre appunto divagazioni cantautoriali. For 17 days we've lived in this cave, overlooking the plain with the ruined remains of Kamara. The brimstone was sent, we were exempt, but the daughters of salt are tempting. The lesson of Sodom, according to God, spoil the child if you spare the rod. But we had a problem, me and my girls. I was the only man in the world. The lesson of Sodom, according to Lot, there's a bottle of wine, is all you've got to result in your wounds and lot. Girls, the lesson of Sodom is I forgot. Drunkenness or my firstborn's kiss that makes my secondborn's hips sway like there is no tomorrow. You know, drink is a curse and lust is the worst, but the daughters of souls are thirsty. The lesson of Sodom, according to God, spoil the child if you spare the rod. We had a problem, me and my girls. I was the only man in the world. The lesson of Sodom, according to Lot, a bottle of wine is all you've got between the salt and the wounds and Lot. Girls, the lesson of Sodom is alibis, a pair of closed eyes and a head full of wine. There's no need to die for your pleasure. Me, I'm getting the best of both worlds in incest. The daughters of salt, they insist. The lesson of Sodom, according to God, spoil a child if you spare the rod. But we had a problem, me and my girls. I was the only man in the world to put my girls in the way of the world. The lesson of Sodom, according to the Lot, if a bottle of wine is all you've got between the salt and your wounds are a lot. Girls, the lesson of Sodom is you can lead a horse to water, but you can't make him drink. No, no, no, no, no, no. The lesson of Sodom is a bird in the hand is worth two in the dark. Oh, no, no, no. The lesson of Sodom is the lesson of Sodom according to law. The lesson of Sodom is run away from home to the gymnasium. The sun in the blinds is blue, and the girl moves to the room like an aquarium. Rules of the game of coins: use the dimmest light or the brightest light. When the hoops stop good ones, sticks catch fire. Rules of the game of coins: on the softest nothing or the hardest ball. When the hoops stop good ones, sticks catch fire. Tunics may be worn or torn away. And the rules of the game may be ignored. left his place of work for the gymnasium. He enters like a tent where the girl has left her scent, like a geranium. Rules of the game of coins, he's the softest melting of the hardest gold, and hopes that letting sticks catch fire. Rules of the game of coins, if it postures right, you can thrust the coin, and hopes that letting sticks catch fire. Tunics may be worn or torn away, and the rules of the game may be ignored. The girl in the rubber shoes pins the ruddy-faced boy to the floor of the gymnasium. She's crawling on the spot, she's the ink grubber, he's the blot, and she erases him. Rules of the game of coins, and the dimmest light or the brightest light, and hopes that letting sticks catch fire. Rules of the game of coins, bend your knees and swing through 90 degrees, and hopes that letting sticks catch fire. Tunics may be worn or torn away, and the rules of the game may be ignored. E visto che li abbiamo evocati dopo Momus con il suo splendido Circus Maximus, Tiny Tim, Narsuit Tund, Current 93. Thank you. be from outer space. He will be a creature. Powerful demon. Scary to the human eye. Very, very fearful. I believe he will either be from another galaxy, that will be an invasion of Earth, from other planets, either in our galaxy or another galaxy, that the Earth will be in captivity. It'll be a time when even the most religious will say, "Where is God? Centuries ago, we've been waiting for him. Centuries ago, the innocents have died. Children have died. My children were killed when Christ was born. So where is the Savior? It was bad enough before this. But now the earth has been captivated by other aliens from other planets. Now we are in almost like the Jews were in the days when Moses, before the Lord showed them out through Moses. But this time, it'll be a spatial calamity. What happened in the past was on this earth. But this time, it will be from outer space. Earth will be captured by unbelievable monsters and antichrists. Now the faith will weaken more than ever, because while there were doubts for centuries, while the earth was here, to make this couple even 10 times harder, these are outer beings from another galaxy to weaken the faith even more. And yet, those who write that certain number on the door, it might be 7, I don't know what it is, will be saved. The Antichrist, that's why Jesus Christ said in the days to come, before the end, it's better many were not born. Or it will be scary. And the shout at the time when he comes will be written King of Kings and Lord of Lords when Christ comes again on his vesture and on his thigh. That name will be written. And he will come at that chosen time. But, and it's only my opinion, I don't think the time will be now. Of course, one never knows. It could be. I have to be on my toes. But I think it'll be way far from now. I believe before the Antichrist comes, there will be visitations either from the planets above or from us to them or both. I believe the next century will surely in the next century, if not earlier, will be the beginning of outer space. To many who hear this tape, to many who listen to this, especially coming from Tiny Tim, eccentric weirdo star of the past, they'll either not listen, take it as a joke, or say it's sick. They can say whatever they want. Maybe they're right. I certainly don't know if I have this great wisdom. I praise the Lord for it. If I don't, I praise him for letting me realize that. But in my opinion, and that's why I've stated those three words, in my opinion only, I believe that the Antichrist will be from another galaxy, another world, Beh, se abbiamo parlato di Matti con Momus o con Tiny Tim, ci andiamo proprio a nozze, visto che è un personaggio che da più di 50 anni fa musiche assolutamente folli, partendo da un folk che per molti versi si è anche avvicinato al primo periodo di Dylan. Stiamo parlando della fine degli anni 50, dei primi anni 60, un personaggio poi che è stato insomma messo dentro il grande calderone dei cantautori americani del Greenwich Village un po' per una comodità di etichettature, visto che appartiene più magari al cantastorie europeo, quasi al giullare che girava sia corti ma non solo, anche appunto cantastorie, quindi dentro le città, dentro le anche improvvisazioni provinciali, quindi non i grandi centri, e poi la figura di Tiny Tim come cantautore assolutamente sui generis, sia per una musicalità che si rifaceva tanto a certo blues, ma anche a certo proprio anche quasi mondo incidentalmente avanguardistico, vicino a certa musica dadaista, una certa attitudine che portava appunto quasi alle avanguardie anche del Fluxus, quindi quasi a un ritrovamento dello strumento autocostruito, oppure appunto un utilizzo assolutamente folle della strumentazione appunto canonica, in questo caso decisamente povera, anche come molto spesso insomma accadrà nel corso della carriera di Tiny Tim, anche se poi appunto l'arte povera di Tiny Tim, accompagnata dall'estro mixeristico di Steve Stapleton dei Nursery Tund, che dopo tanti anni omaggiano così un maestro come Tiny Tim, sia Nursery Tund che Current 93 devono tanto veramente a questo personaggio che appunto nelle Americhe degli anni 60 un po' come un Moondog con voce narrante, cantante, piuttosto che musiche decisamente strumentali come appunto il Cane Lunare che conosciamo, qua 451 frammenti sonori, dipingeva, colorava in maniera anche piuttosto naif le sue canzoni, le sue narrazioni sonore così atipiche anche per l'epoca, ma poi come vi dicevo prima anche per molti versi con rimandi voluti, non voluti, questo poi è anche un gioco delle parti che con Tiny Tim è divertente fare, non si capisce quanto lo faccia e quanto ci è. Li vogliamo bene anche probabilmente per questo, e li vogliamo bene anche decisamente Nursery Tund e David Tibbet dei Current 93. Andando a trovare un personaggio americano anch'ella fuori dai generi, anch'ella decisamente transgender, ha attraversato veramente di tutto nella sua carriera, da una sorta di dub con influssi industrial al punk dei Cress, dove appunto ha militato per un periodo, il gruppo aperto insomma della narco punk eccezionalmente fecondo, eccezionalmente grandioso, NXT, poi fatto della sperimentazione sui generi un suo particolarissimo percorso assolutamente personale, con collaborazioni anch'ella con Current 93, e gira una Sweet Tune, Diana Rogerson, un po' di collaborazioni con Adrian Sherwood, giro dei Mafia, quindi Mark Stewart, un certo attraversamento delle elettroniche degli anni 90 con riferimenti anche drum and bass, insomma un mondo veramente straordinariamente variegato, che l'ha vista tra l'altro anche ultimamente in presenza di Baby D, un bel concerto a Padova, dove appunto i pochi astanti si sono goduti un Anxiety e un Baby D un po' da cabaret Voltaire, come faccenda tra cabaret Voltaire, appunto locale storico della Zurigo dadaista, è un po' piano bar di serie B, sia a livello cinematografico che come qualità di locale, e appunto questa voglia di cantautorato così abbastanza divertito e così con tanto di maledettismo, che poi appunto veniva anch'esso preso così un po' per i piedi e lanciato un po' per aria, un po' con grande senso libertario, ovviamente quello che è da sempre associabile alle musiche di Annie Anxiety, che andiamo a trovare dal suo primo disco solista, Soul Possession, un viaggio dentro uno strano mondo dabbato, decisamente dilatato. Thank you. My baby's gonna be not forgotten tonight.